Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Noise. Come premesso nella settimana passata, con un'ingente pubblicità fatta di volantini, flyer, attacchi in agio, anche ci sono stati dei manifesti, sono stati messi dei manifesti in giro per tutte le città italiane e anche d'Europa. E quindi squillino le trombe, rullino i tamburi. Buonasera, e presentiamo i Maieutica dalla Calabria Saudita in diretta, sempre su Radio Noise. Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Allora, Maieutica, questa sera è seconda, diciamo, puntata dedicata a live in studio in studio di Radio Noise. E quindi questa sera in Maieutica, e lo ripeto un'altra volta, in Maieutica, direttamente dalla Calabria Saudita, di nuovo, e sì. Ciao. Ciao, l'ho appena detto prima, scusami, che cosa altro ti devo dire? No, ovviamente. Qui la puntata e basta. E basta, cioè siamo qui in silenzio e non diciamo nient'altro, mi sembra giusto. Allora, siamo arrivati direttamente dalla Calabria e stasera vi facciamo due o tre pezzi in un repertorio acustico. Ma anche qualcuno di più, se riusciamo. Sì, dai, vediamo, dai. Dipende dalle mie corde vocali. E non posso sforzarle più di troppo, che vuoi. È giusto, no, è giusto. No, ma me lo impedisco. Diteci qualcosa di voi, perché insomma non tutti vi conoscono ancora. Molti magari poi vi vorranno conoscere. Speriamo, speriamo. Allora, veniamo dalla Lamezia Terme, ci siamo fermati nel 2002, fine del 2002. Vi siete fermati o vi siete formati? Fine del 2002, quando alla Lamezia Terme c'era tanta voglia di musica, tanta voglia di suonare. A parte sì, tanta voglia di sesso, droga e rock and roll, che non finisce mai quella. E ci siamo formati quindi nel 2002, da allora abbiamo cambiato un po' la formazione, eravamo in 5. E ci siamo fermati per un annetto e abbiamo poi ripreso nel 2007. Nel 2006 c'è stato un po' di pausa e abbiamo ripreso con un'altra formazione, che è quella attuale, che vede quindi me, Mario alla chitarra e voce, Ciccio alla batteria, Charlie al basso e Simone all'altra chitarra, che è la nuova entrata, diciamo. Adesso tanto nuovo ormai non è più, diciamo. Ormai no, perché tanto nuova no, perché sono passati già 2 anni. Diciamo che rispetto a voi tre, che siete i fondatori dei Maieutica, Simone è la new entry, se vogliamo dire. Per noi è sempre la new entry, però già entrato nei nostri cuori. Bene, allora passiamo subito al primo brano, non de Maieutica, come è stato per Le Cose Perse, anche per i Maieutica, comunque per tutti gli ospiti di studio di Radio Noise. La playlist è scelta dal gruppo stesso e quindi loro gentilmente hanno scelto la playlist e me l'hanno portata a mano, consegnata a mano. Sì, direttamente nelle magiche mani di Renato. Direttamente dal... non debba lavorare, vorrei dire, lavoriamo noi per lui. È giusto, è giusto, scusa, perché... E quindi, primo brano, ci ascoltiamo, stavamo prima, mentre stavamo scegliendo la playlist, io avevo scelto un brano, però Charlie ha detto no, non questo. E quindi ci ascoltiamo sempre i Muse, però, perché quello che avevo scelto io era Newborn dei Muse, ma non è stato accettato. Quindi ci ascoltiamo Stockholm Syndrome, che poi tu mi dici perché l'hai scelta. Va bene. Siete in ascolto di Radio Noise, siete su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org, e questa sera ospiti in studio Maieutica, e loro sono i Muse con Stockholm Syndrome. Yeah. con Stockholm Syndrome, tratto dall'album che ce lo dice Charlie, visto che l'ha scelto. Ci racconta un po' questi Muse. L'album è assoluto. Allora, comunque allora, il microfono si mette di lato. Si mette di lato. Non ho mai impugnato un microfono. Ecco, allora, imparerai stasera. Tanto a me non l'ho messo vicino alla bocca, quindi è un po'. Sembra un po' strano, è una cosa nuova. È una cosa nuova. Comunque devi proprio attaccarlo, ecco. Ah, ecco, ho capito. Niente, ho scelto Stockholm Syndrome semplicemente perché. Non perché è inerente tantissimo al genere che facciamo, però è una canzone energica. Che comunque ricade nello stile che abbiamo, che è un genere comunque che trasmette energia, voglia, cioè trasmette qualcosa di. Però per me è così, pure io sono ascoltatore, nonché primo fan del mio gruppo, voglio dire, quindi so più o meno cosa voglia dire questa canzone, insomma. Tra l'altro la sindrome di Stoccolma è tutta un'altra cosa. È una condizione psicologica nella quale la vittima che è stata sequestrata praticamente vede, manifesta sentimenti positivi nei confronti del sequestratore. Allora io adesso vi chiedo, questa sindrome di Stoccolma, voi ce l'avete? Io stavo facendo una domanda seria. Questa sindrome di Stoccolma può essere riportata alla musica in quanto vostra sequestratrice? Cioè vi sentite sequestrati? Questo mi è venuto. Vi sentite sequestrati dalla musica e quindi manifestando poi però sentimenti positivi, oppure siete voi che avete sequestrato la musica? Radio Noise è un po' marzulliano, sempre dritto. È un po' marzulliano questa, come. Un po' particolare, diciamo che può essere in entrambi i casi, voglio dire, può essere tutte e due le cose. Cioè nel senso che noi abbiamo sequestrato la musica, di quanto l'abbiamo seviziata, poi un attimino c'è. Ha provato anche un po' di interesse e di affetto, diciamo, nei nostri confronti e viceversa, nel senso che ci ha rapiti comunque la musica da un sacco di anni, cioè non ne possiamo fare a meno, insomma, quindi penso che sia anche questo, il fatto che noi ormai siamo devoti a colei che ci ha rapito, insomma. Come vi trovate la musica? Scriviamo bene, molto bene fondamentalmente, sì, è. Fare musica è appunto uno degli scopi primari dopo fare colazione, diciamo. Tra l'altro io ovviamente con i Maieutica è chiaro che le domande che vengono in mente riguardano ovviamente la scena italiana, ma queste domande sono state già. Il discorso è stato più o meno già affrontato con Le Cose Perse, parlando soprattutto del do it yourself, però perché loro sono molto. Vicini al do it yourself, praticano il do it yourself in tutte le loro forme, quindi. Però io ovviamente vi chiedo a voi, a prescindere dalla questione do it yourself, che ripeto è stata affrontata ma non è stata sviscerata perché in due ore è troppo poco, però vi chiedo, la situazione italiana è più che altro voi come vivete la situazione italiana da gruppo calabrese, da gruppo lamentino? Mario, posso rispondere? E io per questo ho fatto la domanda, perché so, perché poi volevo introdurre. No, no, ma perché? Perché Mario è autore anche. Io per questo ho fatto la domanda, mica. Quindi. Sì, io ho fatto un. No, no, ma prima rispondi la situazione musicale in generale, come la vivete? Ma sicuramente per chi sta in Calabria, io credo che in generale in Italia ormai sia difficile fare musica e suonare per un gruppo emergente, però sicuramente per chi sta in Calabria è difficile il doppio. E soprattutto in una città come la nostra, come Lamezia Terme, che sta cercando adesso di riuscire a creare un movimento musicale con diversi gruppi che ci sono sempre stati diversi gruppi, ma non si è mai riuscito a creare veramente qualcosa di forte e importante come magari sono riusciti in altre città. Adesso si sta ci si sta impegnando e vediamo di tirar fuori qualcosa. Insomma, poi Maieutica è anche questo, riuscire a tirar fuori qualcosa. Quindi noi ci impegniamo a farlo. È nella nostra indole, è il nome appunto. Insomma, ve la filosofeggiate dal principio proprio. Sì. Tutta una filosofia. E poi comunque la situazione in Italia è, non so, è, ormai è difficile parlare di una situazione, cioè i gruppi credo che debbano, appunto parlavamo del do it yourself, credo sia una scelta quasi obbligata ormai per un gruppo, darsi da fare con le proprie forze per riuscire a fare un po' di strada, a crearsi qualcosa, che sia un disco autoprodotto, una serie di date organizzate da soli e... a meno che non riesci a trovare qualche un'etichetta seria che riesce a produrti a un certo livello un disco e a assicurarti una distribuzione capillare un po' dappertutto, credo che sia l'unica scelta possibile che un gruppo possa fare, tutti a certo. Quindi in sostanza dare il meglio di sé. Certo, quello sempre. E allora adesso ci ascoltiamo i Foo Fighters con Best of You. Yeah. Confession to make, I'm your fool. Everyone's got the chains to break, holding you. Were you born to resist or be abused? Is someone getting the best, the best, the best, the best of you? Is someone getting the best of you. Is someone Tornati in studio, abbiamo ascoltato i Foo Fighters, Best of You, che è ovviamente altra scelta della playlist dei Maieutica, perché anche i Foo Fighters sono ispiratori di questi Maieutici, giusto? Detti anche, no, io l'altra volta parlando di voi, facendo la pubblicità sulla puntata, vi ho chiamato anche Maieuticons. O Verdeutica. Verdeutica secondo me è più... Lo dicono troppe volte che... Ehi Marlene Kunz, ehi Verdena, troppe volte. Siamo un po' stanchi di questa cosa. È un po'... No, effettivamente... Allora, io... Mia opinione personale, vi dico, è che... Diciamo, fino a un paio di anni fa forse si poteva fare con molta più tranquillità questo tipo di accostamento. Però devo dire che da ascoltatore... E da fan, se vogliamo, devo dire che effettivamente adesso è un po' stretto. No, ma è diventato un po' stretto, più che altro, cioè è quasi ormai inutile fare questi tipi di giochi con le parole, perché no, perché siete allontanati parecchio da quello che erano. È un po' è quello che cercavamo e volevamo, siamo sempre stato a questi gruppi, forse un po' per il genere. Se uno pensa all'alternative rock, pensa di subito a Marlene Kunz, cantato in italiano, certo. Sì, uno pensa quindi a Marlene Kunz, agli After Hours, ai Verdena. L'abbiamo sentito davvero tante volte, recensioni o gente che ci ascolta, guarda Verdena, se non sembra il cantante di questa canzone, sembra proprio il cantante di Verdena. Quindi abbiamo un po' cercato, soprattutto con i pezzi nuovi, di allontanarci da questa cosa. Speriamo di essere riusciti in qualche modo. Vabbè, è chiaro che avere delle influenze è normale, e anche richiamarle, se vogliamo, è giusto. Ma poi fa anche parte della crescita, voglio dire. È normale cercare di creare anche dei brani che suonino come un brano a cui uno è legatissimo, perché si sente anche un po' meglio, no? Infatti, come diceva Mario l'altra volta, i Verdena accomunati ai Nirvana, dicono i Verdena sono i Nirvana italiani, e noi ci dicono che siamo i Verdena, che sta magari a fare un minimo di successo come hanno fatto i Verdena, non sarebbe male. è giusto. Va bene, e adesso direi che è arrivato il momento di sentirvi dal vivo. Yeah. Perché mi sembra giusto sentirvi dal vivo. Quindi, intanto che in Maieutica si preparano, parleremo dopo del brano che andrete a seguire. Semplicemente, qual è il brano? Ok, facciamo Tre Topi Fanno. Tre Topi Fanno, Maieutica. Siete sempre in ascolto di Radio Noise su www.transizionedifase.org. Ho avuto un po' di problemi. E loro sono i Maieutica live on Radio Noise. Nemmeno Bravi Maieutica, Tre Topi Fanno. Grazie, grazie. Tre Topi Fanno, è un titolo emblematico, direi. Ti parlo un po' di questo pezzo. Eh certo. E questo pezzo nasce da un periodo brutto, diciamo, perché eravamo dalla prima formazione, che eravamo in 5, siamo rimasti in 3. Stavo ridendo perché ho chiesto gentilmente a Charlie di farmi una sigaretta, ma è uscita un po', diciamo, vabbè. Comunque abbiamo rotto un attimo il momento di serietà. Stavo dicendo che da una formazione a 5 con cui avevamo iniziato ci siamo trovati in 3 per varie partenze di vari membri del gruppo. E quindi... Ah, è vero che poi in realtà io... Ecco, sì, ora mi è venuto in mente. Sì, lo sapevo anch'io la storia. No, ma comunque gli altri non la sanno. C'è stata una fase in cui abbiamo i 3 Maieutica rimasti, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo continuato a suonare per un periodo in 3, a comporre in 3, a fare in 3. E quindi ecco che è venuto fuori. Ci sentiamo un po' come Tre Topi lasciati soli, e quindi Tre Topi Fanno. E poi, se non sbaglio, questo brano che è stato presentato, non so se è la prima volta, a un live a Lamezia. Esatto, sì. C'è stata lì, là l'avete spiegato, se non sbaglio. Sì, è stata la prima volta, se parli del live che abbiamo fatto insieme al... Non parlo di quella, no, parlo del Music Against Andrangheta, se non sbaglio. No, allora no, non è stata quella la prima volta. Non è stata quella la prima volta. Però abbiamo lì spiegato per... Adesso non mi ricordo qual è stato prima. Però io mi ricordo invece che abbiamo presentato quel brano in un live che abbiamo fatto insieme con i Cani di Sara. Al Calypso. E attività live, eccetera, eccetera. Live passato o futuro? Passato, futuro, presente. Ci stiamo dando da fare per quest'estate, suonare ovunque che possibile. In realtà qua di prostitute della musica ce n'è uno, che è Charlie, che suona più o meno in 15 gruppi, sì. Se non sbaglio ha smesso, non ce la faceva più, cambiato vita. Però ha prestato le 4 corde in vari gruppi. Quindi l'anno scorso ci siamo organizzati un piccolo tour calabrese un po' dappertutto, che abbiamo chiamato Dove Capita Tour. Proprio per dare valore a questa cosa del suonare ovunque. E quest'anno invece abbiamo deciso di chiamarlo La Fine e l'Inizio e La Fine Tour, proprio perché abbiamo fatto uscire da poco un EP che si chiama così. E quindi per promozione, diciamo, per fare pubblicità a questo EP. Sì, l'idea di base è sempre quella. Sì, è sempre Dove Capita, praticamente. Però per dare un po' un tocco di professionalità in più al tutto, abbiamo dato un titolo un po' più. Però Dove Capita, siete andati a finire anche a suonare con. Ma ne parleremo dopo, prima ci ascoltiamo un altro brano. Queens of the Stone Age, No One Knows. Queens of the Stone Age, sì, ti faccio fare una sigaretta. Queens of the Stone Age, No One Knows, altro brano scelto dai Maieutica. Il perché e il per come, non è che non lo chiedo ogni brano, o te lo chiedo ogni brano. Non ho capito perché devo rispondere io a tutte queste domande. Perché tu hai scelto la playlist? Fondamentalmente ho scelto No One Knows così. Così, insomma. Perché ci piace. C'erano delle sonorità, non delle sonorità, più o meno uno stile che abbiamo usato in qualche canzone quando ancora eravamo in cinque, diciamo, e ci siamo ispirati a questo pezzo, diciamo, anche perché era un periodo in cui ascoltavamo parecchio un po' di stoner, e quindi ho pensato a questa canzone. C'è qualcuno che fa dei gesti come a dire: ma che cosa l'ho sta dicendo? Io, l'ascolta. In realtà l'ascolta. Lo ammetto, sì. Ascoltavo un po' di stoner. No, vabbè, ma poi questa è stata una domanda fatta così. Però in realtà tante volte la playlist è scelta col cuore, no? Diciamo, non c'è. Oppure è scelta random, semplicemente. Dice adesso che cosa metto. E quindi stavamo dicendo prima del live con i Marlene Kunz. Sì, è stata una bella botta di culo. Perché comunque, cioè, il microfono è sempre lì. Ha funzionato più o meno come funziona per trovare tutte le date. Chiami. Dove capita? Lo faccio raccontare da Simone, che è lui che ha avuto la botta di culo. Bene, allora Simone ci racconterà questa esperienza. Allora, la botta di culo è stata una marea di numeri dati di amici, quelli che dicono: oh, mi dai i contatti, che chiamo là per suonare. Allora io e Ciccio siamo andati al mare, che lui, non mi ricordo, doveva organizzare un falò, e io mi sono messo al cellulare a chiamare a tutti questi numeri. Salve, siamo in Maiatica. A un certo punto chiamo un tipo e mi fa: ho chiamato questo tipo per un Cosenza Free Music Festival, era un qualcosa del genere. Comunque non c'entrava nulla con quello che poi mi ha detto. Chiamo: pronto, ciao. No, quella cosa non l'organizzo più da 5 anni. Ah, oh, però se vuoi ti posso far aprire Marlene Kunz. Ah, va bene, gli ho detto, come, che dobbiamo fare? No, lasciatemi i numeri, i contatti, che poi vi contatto io. Questa è stata la bozza di culo, proprio così. Un segno divino? No. Botta di culo e basta. Tra l'altro un tipo un po' veloce. Oh, sì, ciao. Un tipo un po' veloce. Sì, nel senso che sì. Al telefono proprio mi ha detto così. Non è stato un tipo rapido. Io ho sintetizzato io il racconto, ma lui mi ha detto proprio: no, se vuoi ti faccio aprire Marlene Kunz. Ok. E dopo un'altra chiamata mi ha detto: quando, come, perché, che fare. Insomma, è stata sì, una botta di culo proprio regalata. Regalata no, regalata non è mai meritata. Niente. Meritata, non dite queste cose. È meritata. Ah, sì? Ah, c'è. Ah, te l'ho detto io che c'è. Dissidi all'interno dei Maieuti, che discordanze. Dicono che c'hanno anche io ho detto che quest'uomo ci ha chiesto se avevamo aperto Caparezza al Capodanno. Ah, magari gliel'ho detto come referenze del gruppo. Per farmi come curriculum. Anche perché era l'unica, diciamo, bella botta che avevamo fatto, no? La prima forse è stata la prima di due. La prima di due. La prima di due, tre, dai, che abbiamo aperto un gruppo abbastanza tre. Che abbiamo aperto un gruppo abbastanza. Il parto delle nuvole pesanti, Caparezza e Marlene Kunz. Vabbè, insomma, quindi mica male. Infatti, una mica bella... male. Quindi il prossimo gruppo per cui aprirete? Io sai cosa faccio certe volte? Vado sui MySpace dei gruppi già abbastanza conosciuti e mi vado a beccare se c'hanno delle date in Calabria. Quindi cerchi di... E faccio poi la faccia di culo magari di mettermi in contatto in qualche modo, se riusciamo. Perché non si sa mai, vedi, le bozze certo. Di culo vengono così. Poi comunque se non tenti, se non fai... Le cose non vengono, cioè se comunque chiaro, non fai le cose non vengono. Bisogna vedere che forno fuma ogni volta in sì, sostanza. Sì, devi andare a vedere un po' in giro. Fondamentalmente è sempre la stessa storia, credo, sia nella musica o non so, nel mondo, anche nel mondo dello spettacolo. Se non c'hai la faccia di culo di esporti un minimo, non c'hai possibilità di o c'hai più possibilità di fare qualcosa, certo, no? E quindi siete pronti per il prossimo brano? Yes, prontissimi. Ok, quale facciamo stavolta? Uno nuovo nuovo. Ok, sì, facciamo 1999. 1999. Sì, vai. Siccome ci sembrava troppo brutto chiamarlo come il pezzo dei Meganoid, abbiamo deciso di chiamarlo 19-99. Così, ah, 19-99. Ah, perché i Meganoidi hanno anche un brano che si chiama. Però voglio dire, non è un pezzo famosissimo dei Meganoidi. Se tu dici Meganoidi, tutti si ricordano Meganoidi, capito, supereroi, Zeta Reticoli. Cioè, non ci va a pensare nessuno a 1999. Quindi praticamente voi vi siete ispirati ai Meganoidi, che sono ispirati agli Smashing Pumpkins praticamente. No, andando avanti di 20 anni. Siccome il pezzo parla un po' di un futuro devastato, diciamo, ho preso quest'anno come la fine un po' di tutte le cose degli anni 90 che ci appartengono un po' come attitudine musicale, del millennio, del... Ah, anche perché Radio Noiz si occupa soprattutto degli anni 90, quindi anche la chiamata dei Maieutica non è stata casuale, perché anche i Maieutica sono molto vicini agli anni 90, sia perché ci sono cresciuti ovviamente. Certo, sì. Simone è nato proprio nel 90, proprio. Quindi è un pezzo 90, da 90, pezzo da Simone. Però gli altri, bene o male, come influenze musicali, siamo tutti sui 90. Quindi facciamo questo pezzo 1999. Allora, Maieutica 1999 live on Radio Noiz. Scoppiato cambiato il mondo. E la gente come me è sparita in un secondo. Ma poi è scoppiato il mondo. E la gente come me è sparita in un secondo. ...1999, Maieutica, bravi, bravi. Grazie. Bravi, diciamo una, fatevi un applauso. Bravi! Sì, un poco più di entusiasmo. Oh. Quindi 1999, tra l'altro si lega anche al nome dell'EP, la fine e l'inizio, no, l'inizio e la fine. Non è presente perché abbiamo registrato solo tre brani e questo è, diciamo... È arrivato in un. Era ancora in fase embrionale durante le registrazioni, quindi abbiamo preferito registrare questi tre brani più. Su cui eravamo più sicuri, diciamo. Allora, direi che subito, immediatamente, visto che abbiamo parlato anche troppo, direi di ascoltare un brano dal vostro EP. Ok, te ne facciamo. Vuoi che te lo suoniamo? No, lo ascoltiamo okay. In studio. Ok. Cosa vogliamo ascoltare? Pseudo Kidney. Pseudo Kidney, Maieutica, live in studio dall'EP L'inizio e la fine. No, la fine e l'inizio, scusa. La fine e l'inizio e la fine. Mi ricorda qualcosa? La fine e l'inizio e la fine. Mi ricorda, no, ma lo ascolto, vabbè, ci poi, penso. Poi in caso lo diciamo. Poi dai, in caso lo diciamo. Maieutica, Pseudo Kidney. Thank you. Pseudo Kidney. Pseudo Kidney. Sì. Cosa volevi sapere, dai? Quello che fa, io lascio il microfono acceso, voi dite. No, allora, dove è stato registrato l'EP, anche perché quest'altra conoscenza io ritengo sia stata più o meno anche a culo. Sì, non a culo, dai, però. Cioè, diciamo gli eventi o no, perché come è andata, dove avete registrato, com'è andata? Allora, partiamo dal fatto che volevamo. Come c'è stato il connubio, diciamo. Volevamo registrare dei brani nuovi proprio per il fatto di cui parlavamo prima, un po' il cambio di sonorità, avevamo necessità di rinnovare anche un po' e far conoscere agli altri quello che stavamo facendo adesso, e quindi abbiamo deciso di registrare questi tre brani e, guardando un po' ovunque dove potevamo rivolgerci, siamo capitati tra le mani sante, possiamo dire, perché comunque c'è stato un rapporto bellissimo di Dario Brunori, che è diciamo sta dietro al progetto Bruno Risas, è lui il fulcro del progetto Bruno Risas, e abbiamo registrato nel suo studio di Cosenza, il PCK Studio di Rende. Un incontro credo felicissimo, perché ci siamo trovati a lavorare veramente benissimo in studio con lui, un'atmosfera, lui credo sia una persona veramente fantastica, un'atmosfera piacevole veramente, non una di quelle cose forzate che devi andare a guardare sempre l'orologio, a vedere se stai nei tempi, se ce la fai. Cioè, abbiamo lavorato nella massima tranquillità e ci siamo trovati bene. Quindi. Ma prima di questo EP c'erano state altri EP, cioè altre esperienze in studio, oppure è stata la prima in assoluto? No, prima di questo EP abbiamo fatto da soli, abbiamo autoprodotto un CD di 10 brani che però abbiamo registrato anche noi, è stata veramente un'autoproduzione proprio vera e propria, dalla registrazione alla stampa dei dischi e tutto quanto, con l'aiuto di Francesco e Antonio Lettura, che sono due nostri amici e ci tengo a nominarli, hanno fatto davvero tanto per noi, però non un'esperienza proprio in studio, in uno studio vero e proprio, perché abbiamo registrato in una casa. Abbiamo registrato in studio un brano che faceva parte di una compilation uscita anni e anni fa, che tu conosci benissimo, che è Sgruscio, raccoglieva un po' tutti i gruppi lametini dell'epoca, e lì abbiamo registrato in uno studio al West Point lì a Cosenza, un mitico studio ormai conosciutissimo, credo, nell'ambito calabrese, sì, la West Point. Prima abbiamo parlato dei Marlene Kunz, adesso guardando la playlist visto che c'è un brano scelto, perché è come rinnegare il passato, voglio dire, non si può rinnegare, è chiaro. Comunque anche il fatto che abbiamo aperto la serata, insomma, cioè è comunque una parte di noi, non possiamo rinnegarla. Sicuramente ora ci siamo spostati da quel tipo di genere, anche se comunque una minima influenza si riesce a captare, minima però per ora, diciamo. E allora voglio dire una cosa, cioè sembra che adesso ci fanno schifo sti gruppi, no? Anzi, no. No, vabbè, tutt'altro. È chiaro che cercate una vostra identità, sì, è normale, una giusto. Cosa diciamo personale, ecco, non emulare gli altri, però credo sia naturale in tutti quanti, in tutte le cose che si fanno, non solo nella musica. Allora, Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Yeah. Pelle, è la tua, proprio quella che mi manca. In certi momenti, in questo momento, è la tua pelle ciò che sento. Nuotando nell'aria, odori dell'amore nella mente, dolente, tremante, ardente. Il cuore domanda, cos'è che manca? Perché si sente male, molto male. vedi ancora. Siete sempre in ascolto di Radio Noise, questa è la decima puntata, ospiti studio questa sera Maieutica, ne abbiamo appena ascoltato Nuotando nell'aria, pezzo molto romantico dei Marlene Kunz da Catartica del 1900, non me lo ricordo, 94, ecco mi suggeriscono, quindi sempre anni 90. Stavi dicendo qualcosa? No, non lo so, poi mi sono bloccato perché me la sono ascoltata. Ah no, volevo dire che ogni tanto facciamo anche la cover di questa canzone perché comunque... Ma chi è che non ha fatto la cover di Nuotando nell'aria? Esattamente. E io ricordo un poco di contatti perché ancora non è stato fatto, di solito ricordo sempre i contatti. Quindi radionoise@hotmail.it, se volete aggiungere il contatto MSN, radionoise010 scritto in cifre, @gmail.com per mandare le email, per anche mandare dei brani se siete, se fate parte di gruppi emergenti, gruppi indipendenti, sarete quindi messi in rotazione sulle frequenze di Radio Noise, che è nel contenitore di Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Ho sempre sognato leggere on air, comunque. È sempre sognato, è bello leggere on air. E prima però stiamo parlando, ma molto prima, del DVD, che sta perché i Maieutica sono attivi non solo per loro stessi, ma sono attivi proprio per il panorama musicale. Sì, ma più che i Maieutica, diciamo Mario Vitale è più... Vabbè, ma perché voglio dire... Cioè, non però, ti buttare giù non così, meriti che... Non ti buttare giù così, voglio dire. Guarda, no. Gli abbiamo dato tutti una mano, noi membri del gruppo. Quindi la musica normale. Penso che devi parlare appunto con lui. Devo parlare con lui. È il più aggiornato. È il più aggiornato. Eccomi. Sì, la musica normale. È un docufiction che ho girato. Docufiction, sì, a metà tra appunto il documentario e la fiction, che raccoglie un po' le testimonianze dei gruppi lametini, e tende insomma a mettere in evidenza lo stato delle cose attuali. Vorrei comunque ricordare che l'idea nasce da un diciamo dalla testa di un'altra persona che si è sempre mossa verso i giovani, verso la musica, che è Antonello Iovane, che mi ha proposto questa cosa. Io ho accettato volentieri perché comunque metteva insieme quelle che sono le mie due passioni della vita, la musica e il cinema, e quindi ho accettato volentieri e ci siamo messi in questa avventura. È uscito fuori un film di un'ora che racconta la storia di un gruppo immaginario che va in giro tra locali a chiedere semplicemente un po' di spazio per suonare, e si trova diciamo di fronte a personaggi grotteschi, quasi comici, un po' una presa per il culo, passati in termini, di questi soggetti che poi fondamentalmente sono gente che, non voglio essere offensivo, un po' gente ignorante verso la musica, verso una certa cultura musicale, artistica in generale. Quindi il film mira un po' a sottolineare questo, e dall'altra parte la voglia di emergere, di fare, di uscire da questo torpore culturale che poi i giovani vivono un po' tutti alla mezza. È possibile trovare il DVD, se è possibile recuperarlo in qualche modo, cioè come dal punto di vista diciamo della distribuzione, cioè c'è un'intenzione di distribuire, sì, oppure stiamo valutando un po' qual è la cosa migliore da fare, perché sicuramente non vogliamo lucrare su questa cosa, stiamo cercando di vedere quale sia il sistema, se fare dei DVD fatti diciamo in maniera seriamente, magari con la copertina eccetera eccetera, però a quel punto naturalmente ci servono dei fondi, dei soldi che riusciamo a trovare, facciamo, se no ci diamo da fare alla vecchia maniera, diciamo distribuzione in massa e via, sì. E via. Altro brano? Sì, ti facciamo un altro pezzo. Mi fate un altro pezzo. Facciamo un pezzo che sta nell'EP, si chiama Bananarama. Maieutica, Bananarama. Sì. frammenti spenti, i miei occhi al limite. Poi scacco matto e spacco la vertigine. Esplosioni nucleari dentro i centri commerciali. Maieutica, Bananarama, voi siete sempre in ascolto di Radio Noise. Forse però ritengo anche che stiamo parlando un poco troppo. Quindi state rompendo un po' le palle in realtà. Infatti, cioè state diventando un po' pesanti, voglio dire. All'improvviso, tra un brano e l'altro di uscire dallo studio e scappare. No, mi sembra. E quindi ci ascoltiamo immediatamente un altro brano che sceglie Charlie. Che sta guardando. Ok, allora il secondo. Ma vuole che puoi parlare, non c'è problema. Cioè, non è. Volevo riuscire a farlo attraverso i segni muti, però. Molto bravo, diciamo. No, infatti, non. Allora possiamo mettere questo volendo. Ok, è un bel brano. È un bel brano che ci piace. Stand Inside Your Love, Smashing Pumpkins. noi stiamo ancora ridendo per quello che è successo, perché vabbè, niente, non possiamo raccontare, perché altrimenti, però è stata simpatica, è stato simpatico tutta la teatrina. Che ovviamente non potete vedere. La cosa brutta della radio per certi versi è che non potete vedere. Adesso faremo Radio Noise farà come DJ Chiama Italia, che mette anche, fa vedere il video di quello che succede in studio, sì, no? Potremmo anche fare così. Che poi diventa televisione, non ha più nessun senso. In sostanza. Però il bello della radio è che è la radio. È la radio, perché c'è scritto Nair. Ma preferisci lampeggiante oppure che è fisso? No, mi piace che sia fisso. Mi piace che è proprio lampeggiante, e poi mi vengono le crocette vecchie. Non ne soffro. Allora, dopo aver ascoltato Bananarama, dopo aver ascoltato gli Smashing Pumpkins, dopo che è passato un po' di tempo questa decima puntata di Radio Noise. È bello da vedere Charlie, è bello. No, perché mi stiravo? Niente, neanche io. Il microfono sempre dritto. Come vuoi, Colten? Te l'ho detto, non sono. No, sta puntando piano piano verso il muro. Il microfono. Non so se vuoi. Stato puntato alla bocca. Non so se vuoi utilizzare la refrazione del muro sonora per cercare, ma non credo che funzioni. No, no, no. Va bene così. Vedi, vedi, punta a destra. Cioè, come punta a destra? Piano piano. No, non è che posso prendere la mira oppure. Così va bene. Sì. Mi devo allenare, non è, scusa. Ti devi non allenare. La prossima volta devi essere un po' più attento. Ok, ci proverò. Visto che hai il microfono, racconta. Di cosa? Quello che vuoi. Di cosa? Cosa vuoi che ti racconti? Bananarama, parliamo. Bananarama. Facciamo i seri. Perché io voglio che la gente che vi sta ascoltando si emozioni, si appassioni. Ai Maieutica, così poi. Ma voi che volete fare da grande? Come Maieutica, intendo. Cioè. Dobbiamo ancora parlarne di questo. Non avete parlato. Fare da grandi è. Che sto facendo? Da grandi vorremmo suonare ovunque, suonare in tutta Italia, in più spazi possibili, e non suonare solo in Calabria, oppure andare fuori solo per dei contest, perché vorremmo comunque che la gente ci conoscesse attraverso quello che facciamo, che rendiamo molto di più nell'impatto live, nello scambio di energia, che comunque nei contest ci sono sempre quei soliti problemi legati al tempo, quali i 20-30 minuti, che insomma penalizzano, diciamo, da un certo punto di vista. Vi permette di esprimervi al massimo, diciamo. Esattamente, perché nel momento in cui il live nostro dura un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Un attimo che finisco. Grazie. Nel momento in cui dura un'ora e mezza, magari possiamo dare di più, avere un contatto più intimo, tra virgolette, con chi ci ascolta. E no, volevo spezzare un attimo, ascoltare un altro brano, perché con le tue grazie alle tue parole continua. No, grazie alle tue parole mi è venuto in mente questo brano dei Creed. Dei Creed. My Sacrifice, Creed. Mario, prima io l'ho interrotto, mi dispiace, però Mario voleva dire qualcosa a proposito. No, volevo dire che alla fine un concerto sempre, io sono fissato poi con il cinema, è come se guardi un film, quindi se ti guardi un quarto d'ora di un film ti vedi due... non ti puoi guardare un trailer. Esatto, guardi tre scene, magari non hai visto il film. Un gruppo si esprime attraverso un concerto, diciamo dall'inizio alla fine, giusto per restare in tema. E quindi puoi valutarlo bene, appunto come diceva Charlie, dopo averlo visto dall'inizio alla fine. Quindi i contest sì, magari ti mettono in luce le potenzialità singole di un brano, di due brani, di tre brani, ma nel complesso non hanno la possibilità di far vedere l'impatto che hai sul palco. Questo giusto, Ciccio? Sì, no, io mentre Carletto prima diceva, rispondeva alla domanda cosa volete fare da grande, io penso che noi vogliamo diventare abbastanza famosi da non dover smontare gli strumenti. Questa è la cosa, ma questo è un problema che soprattutto sentono i batteristi, a noi ma lo ci sappiamo passa, benissimo che il a batterista... noi ci passa quello, cioè avere qualcuno che ti smonti tutto. Sì, no, l'importante è che... concerto, no, ma io mi ricordo infatti sempre il batterista dei Miss Frolen che quando andava a smontare la batteria diceva sempre: ma perché io non sono il piffero? Perché giusto, quindi i batteristi sentono molto di più questo problema. Non sempre però, perché se tu vai a fare un contest la batteria è già là e il batterista si porta solo le bacchette e il rullante. Quindi, allora, quindi Simone vuole fare contest tutta la vita. No. Per Ciccio gli perché è solidale con Ciccio. La batteria, là, volevo solo precisare che io mi chiumpo quando lui si porta solo le bacchette, capito? Ah, sì. perché non sapeva che vuol dire mi... anche dove capita. Dove capita, capita, però sì, lo posso. Mi chiumpo, dammi un termine in italiano. Rosicare? Vi piace? Ci piace. Rosicare è quello che ci avvicina di più forse, però non esiste una definizione europea. Cioè mi chiumpo racchiude più termini, cioè non è inspiegabile. Guarda, io avevo due amici spagnoli, Erasmus, che avevano preso a dire anche loro questo termine perché bisogna coglierlo e quindi una volta che cogli il suo significato diventa internazionale. E anche loro dicevano tutti chiumpi. Quindi non si può spianare. Sì, perché magari dicevo ti stai chiumpando. Che si dice chiumpendo, sì, spieghiamolo per chi non lo sa. Si dice chiumpendo, non chiumpando. Quindi attenzione ai termini. Altro brano live o in studio, cosa vogliamo ascoltare? Facciamo un altro brano dell'EP, dai. Facciamo un altro brano dell'EP? Sì. No, lo ascoltiamo sì. Dall'EP, okay. Sì, dall'EP. Facciamo la fine, l'inizio e la fine. La fine, l'inizio e la fine. Poi la traduzione, no. Poi lo diciamo. Poi lo diciamo, aspettiamo questo momento. Lo diciamo dopo, dai. Maieutica, siete sempre in ascolto di Radio Noise. Questa è la fine, l'inizio e la fine. Ho imparato. Lei è una fata assai rara. Le piaceva sognare, svolare in quel mondo. Così irreale, io il vampiro la trascinavo giù fino a farla atterrare, le spaccavo il cuore. Avvicinava domani mentre piano crolla il mondo, oggi non si può non meditare, pensi è la mia decisione, ma è tardi quando è chiaro, è tardi quando è chiaro. già, tu sei il buono. Ora sei la guerra e la pace, tu sei. Insomma fingo indifferente, cerco cose che non ho. Insomma fingo indifferente, cerco cose che non ho. Titolo quindi deciso a tavolino a Palermo, come è stato detto poc'anzi, il titolo dell'EP. Sì, la fine, l'inizio e la fine, titolo della, di una canzone dell'EP. E, deciso a Palermo durante una finale del concorso Parte Live, avevamo questo nuovo brano e come al solito facciamo le riunioni per trovare un titolo che poi alla fine i titoli per noi devono essere d'effetto, anche se non hanno una relazione con il brano, però, o con nulla, cioè sì, però il titolo se d'effetto la gente comunque se lo ricorda. Certo, ma la comunicazione è importante. Esatto. È importante comunicare. E quindi è venuto fuori la fine, l'inizio e la fine, che magari i più attenti di voi hanno ricondotto a qualcosa di già sentito, magari un déjà vu. Ed è la traduzione in italiano di un titolo di un pezzo di Smashing Pumpkins, The End is the Beginning is the End, che ci è piaciuto, insomma, in italiano rendeva anche più. Quindi c'è stato un'ispirazione. Sì, anche perché comunque sono stato più gentile, ho detto ispirazione perché Simone ha utilizzato stato, un altro è termine. È un omaggio perché gli Smashing Pumpkins sono penso sia il gruppo che porto di più nel cuore, quindi abbiamo omaggiato così, ecco. Prima parlavamo di ascolti, Carletto ha parlato di ascolti suoi, ha detto che suonava Testoner in un periodo. E ho detto personalmente. E come funziona dal punto di vista degli ascolti personali musicali, perché ritengo che non tutti e quattro ascoltate le stesse cose più o meno. Ci sono dei gruppi che abbiamo in comune, che comunque ascoltiamo tutti spesso e volentieri, vedi Foo Fighters, i Muse, Radiohead, Smashing Pumpkins, anche se tipo il batterista Ciccio un po' di meno, che non ha questa attitudine allo sporco proprio anni 90. Lui, diciamo che per quanto anni 90, più sul post grunge, diciamo, se possiamo chiamarlo così, tipo i Creed un pochino. Okay. Sono uno dei suoi gruppi preferiti, insomma. C'è il metallaro nel gruppo oppure no? No, non c'è. Non ce ne sono metallari. Purtroppo il metal non è un genere che ci riguarda minimamente, né come Ci siete tutti dei rockers. Sì. Se così si può. Sì. Ah sì, è vero, Simone è uscito che ha parlato poco, visto che è la new entry. Visto che è la new entry. Io sono tacciato come il bluesettaro. Fai le cose blues, fai le cose blues, non va bene, no, però. Cioè, alla fine penso, non so voi come la pensate, comunque negli anni 60, 70, un po' nasce tutto da lì. I Beatles si distaccano da quel mondo, però cioè ne escono, è tutto un fluire dal passato. Poi se parliamo di blues parliamo, non so, di anni 30, quello è il blues. Poi negli anni 50, 60, 70 c'è Hendrix, ci sono i Beatles, è già un altro, è già un rock. Hendrix non è blues, c'è gente che dice Hendrix, infatti lui l'altra volta mi diceva parla di un po' influenza. Io personalmente ti direi Hendrix non è male come. Cioè, ovviamente non è male, cioè. In questo genere. Come diciamo, rispecchia quello che un po' mi piace. È un qualcosa che varia dal blues al rock più psichedelico. Infatti noi non è che non siamo psichedelici, lo siamo psichedelici. Ogni tanto lo siamo, in Canna Balloon facciamo un. C'è un. Sì, no, è quella. Forse in qualche pezzo più che psichedelia c'è quella cosa di produrre suoni, rumori, che poi è quello che diciamo in Pseudo Kid, produrrò rumori, cambierò colori, cioè. E trovare magari sonorità che non sono. Anche se ormai veramente l'hanno fatto tutti, però. Trovare il suono più che il rumore che diventa suono, ecco questo. Rumore che diventa suono, interessante. Poi qui siamo a Radio Noise, quindi voglio dire. Quindi prossimo brano. I the sun. Allora, Carletto ha bevuto, Charlie, quindi possiamo... Sì, a posto. Sì, è stato veramente il momento più bello della giornata. Ti è piaciuto? È divertente questa cosa. Di emozioni. Che siamo vicini. Che siamo vicini, sì, è divertente. E cosa volevo dire? Contatti, ragazzi. Contatti MySpace, Facebook. Allora, il nostro MySpace è myspace.com/maieuticastyle. Allora, l'altra volta l'ho detto bene, perché non ero sicuro. Poi ho detto maieuticastyle. Diciamo una cosa. Allora, Carletto tende a precisarlo sempre. Di solito mette http www.maieuticastyle con la y. myspace.com. No, non era così. www.myspace.com/maieuticastyle con la y. Ecco, questa è una precisione. Perché penso che gli altri non capiscano. Perché quando lo dici, cioè, ci sono una manata di vecchio, no? Ah, ecco. Non sembra il caso di specificare, no? Certo. Comunque c'è anche Facebook, che è www.facebook. Guarda, tutti alzano la mano, tutti vogliono fare, mi piace il microfono, Ti ho coperto mentre hai capito cazzo. Ti ho coperto mentre sono completamente disinteressato. Allora, sì, facebook.com senza www. Senza www. No, c'è www pure a Facebook. Sì, non lo so, però per evitare dilunghi inutili. Comunque facebook.com/maieutica. Senza style, però. No, siamo gli unici. Perché avete... perché c'è style sul MySpace? Te invece... lo spiego io, perché solo io lo so, fondamentalmente. Era il 2006 circa, ero a casa di Ciccio a Cosenza. Un pomeriggio ho detto, oggi qua faccio il... non suonavamo più all'epoca, perché c'era quell'anno di pausa, diciamo. Dove non c'erano neanche i tre topi che facevano. Esattamente. Praticamente ho detto, oggi qua faccio il MySpace, visto che in quell'anno, diciamo, andava di moda. Andava di moda. Esattamente. Però non l'ho saputo fare. Avevo messo praticamente maieutica, poi ho perso password e tutto, non c'era un cazzo sul MySpace. Praticamente ho dovuto rifarlo e maieutica era già occupato da me, che, dall'altro account che avevo scordato le password, e ho dovuto rifare. Questa è la spiegazione, io pensavo ci fosse un'altra spiegazione. No, è questa, vedete. È triste come... È triste. No, no, io penso ce ne fosse un'altra legato al nome. No, no. Che era già occupato. Perché cioè, in quel momento era... Quello, quando... Quello. No, voglio dire una cosa, visto che comunque ci è dato questa possibilità di farci ascoltare dagli ascoltatori di Radio Noise, che in Italia esistono... Oh, adesso magari non mi frega un cazzo a nessuno. Però... Cioè, ci sono altri gruppi che si chiamano Maieutica. Altri, non altro, altri. Altri. Addirittura. Ho fatto delle ricerche su Google e sono arrivato a contare 5 gruppi che si chiamano Maieutica. 4 non siamo noi, ma sono altri gruppi che hanno preso questo nostro nome che ci appartiene ormai dal 2002. Senza fregarsene di niente, se lo sono presi e si chiamano anche loro così. E niente, volevo rivendicare giusto questa cosa che siete stati stage primi. Dal 2002 on air. Queste cose dal 2002, quindi un po' ci appartiene rispetto agli altri questo nome. E poi ci abbiamo anche più fan su Facebook. Perché c'è anche questa gara con i Daily Grind. Sì, c'è questa gara con gli amici dei Daily Grind, con Marco Medaglia, che si fanno le riunioni su MSN per aggiungersi tutti gli amici su Facebook e ci gareggiamo così con due cazzoni io e lui. Daily Grind, altro gruppo calabrese che probabilmente a questo punto, cioè, glielo devo. Anche se mi stanno purtroppo, però vabbè, mi dispiace, però vado. Bisogna farlo, ma l'abbiamo nominato. Ci saranno probabilmente ospiti in studio, sempre live on Radio Noise. Certo. E niente, ascoltiamo un altro brano. Vai. E poi salutiamo. Siamo giunti quindi alla fine di questa decima puntata di Radio Noise, martedì 22 giugno. E ora passeremo la palla Out of the Shell, delirio indipendente di intervento sociale, come ogni sera alle 23, dalle 23 all'1. Voi avete ascoltato quindi Radio Noise in onda su Transizione di Fase, www.transizionedifase.org. Ospite in studio questa sera è Maieutica, che ringrazio affettuosamente di essere intervenuti e di aver partecipato, e con piacere ho ascoltato i loro brani, che tra l'altro devo dire che anche in acustico rendono molto, hanno molto effetto. Infatti avete fatto anche un concerto acustico queste vacanze di Natale passate. È una stato... chiave che ci piace prendere ogni tanto per riarrangiare i pezzi. È una dimensione particolare. Quindi qualcos'altro volete dire prima di lasciarci? Cogliamo l'occasione per ringraziarti per la tua disponibilità. Sì, loro ringraziano perché in realtà sono stati pagati profumatamente. Grazie per avermi suggerito il termine che non mi veniva. E niente, quindi grazie a te, grazie a chi manda in onda questa trasmissione, chi permette, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci questa, di ascoltare un po' di cazzate on air, sempre on air, che a Charlie piace molto. Allora, vi ringrazio di essere stati in ascolto. Per l'ultima volta i contatti: radionoise@gmail.it per raggiungere il contatto MSN, radionoise010 scritto in cifre @gmail.com per scrivere le email e avere informazioni. C'è anche Facebook, quindi cercate la pagina di Radio Noise. C'è anche la pagina di Maieutica Facebook, quindi scrivete Maieutica, e poi myspace.com/Maieutica stile con la Y. Quindi vi lascio con l'ultimo brano dei Maieutica. Ah, volevo dire, per quanto riguarda gli EP, sono già in distribuzione? Sì, abbiamo comunque, li trovate sul nostro MySpace, trovate i tre brani che fanno parte dell'EP, e poi abbiamo stampato, sempre autoprodotto, il nostro il supporto CD. Se avete occasione di ascoltarci dal vivo, sicuramente li troverete con noi. Potrete avere prossimi appuntamenti live di quest'estate, se ce n'è già qualcuno confermato. Sì, abbiamo tra pochi giorni a Catanzaro per una manifestazione contro le tossicodipendenze, e poi il 17 luglio al Cubo Rock di Sellia Marina insieme alle Chiede di Granchio, un altro gruppo lamechino. Vedremo di avere anche ospite loro. Sì, speriamo. E il 2 agosto al Lido Caposuvero, Gizzeria Lido, insieme ai Dissidio, sarà la prima di tre serate circa ad agosto, che vedrà la partecipazione di altri gruppi lamechini in carattere. Perché tra l'altro c'è, diciamo, questo connubio fino che è stato instaurato tra il Lido Caposuvero e Maieutica, o il Lido Caposuvero e Mario? No, tra il Lido Caposuvero e Mario. E Mario, sì. Che organizza queste serate, ha organizzato anche l'estate scorsa, sì, un bellissimo falò in musica. Un falò in musica che ha anche duettato con noi il vostro mitico Renato. Con molto piacere e entusiasmo. E cerchiamo quest'anno di triplicare questa serata, sperando che la gente apprezzi gli sforzi. Allora, quindi state sempre sintonizzati sulle pagine internet dei Maieutica, quindi su MySpace, su Facebook, per avere notizie, e se vi sono piaciuti e potete seguirli, vi consiglio quindi di seguirli live, così avranno i primi rodi ufficiali, potranno avere, quindi così magari Ciccio troverà qualcuno che gli smonterà la batteria e piano piano quindi riuscirà a togliersi questo peso di dosso. Ringrazio tutti di essere stati in ascolto, ringrazio nuovamente Maieutica, vi lascio con il loro ultimo brano live, che è Zuxantel. Buonanotte a tutti, ci sentiamo settimana prossima, grazie. Passa l'estate e poi passa l'inverno, e tutto quanto rimane così. Tutti gli oggetti identità. petto con una parola. E tutto quanto rimane così. Tutti gli oggetti. Just